prova, attenzione 10, prova. Avanti prova, avanti prova. E me lo provi. Ma sicuro si deve stare il gabbo. Giornata strana, Giulio, buonasera. Io sono ancora ansimante, tutto il giorno mi faccio roba avanti e indietro per la macchina che lunedì va a revisione. E ho pulita un po' dentro, ho buttato, c'era tanta di quella roba, di quelle bottiglie di plastica, di quella carta, di volantini, no? Non hai idea. Però l'ho lavata dentro e fuori, adesso sono stanco e ansimante e sto per cucinare. Ah, ho capito. No, te avevo scambiato per un altro, te avevo scambiato. Ah, mi dice, prova, e poi non risponde. Vabbè, vabbè, anch'io devo revisionare questo mese sempre, la devo revisionare anch'io questo mese. Domani ne abbiamo, mi sembra, 23 se non sbaglio, 24, boh. Va bene, dunque ho tempo tutto il mese. Quasi quasi domani vado e me la prenoto. Io vado lì a Pedanieda, da Fiori, officina Fiori, lì che fanno la bella revisione. Anch'io la devo lavare perché con questo servizio che ha fatto anche ieri notte, ha fatto un po' di servizio, ha fatto e dunque me l'ha fatta tutta sozza. Sono andato ieri per lavarla al lavaggio e meno male che non funzionava il lavaggio dove vado io, se no stavolta me l'avrebbe sporcata e avrei preso 15 euro inutilmente. Io sono andato da Auchan, a fianco a Auchan, no? C'era sia il lavaggio a pagamento, c'era una filona che non ti dico, e c'era anche una piccola filettina al lavaggio manuale che fai tu, no? Metti il gettone, ho fatto risciacquo perché era sporca, no, credo che non la lavassimo dalla vecchia revisione fuori, senza, no, vabbè, già l'avrò lavata, ma solo con acqua, no? Quindi prelavaggio, che c'è una specie di schiumetta, spazzola la schiuma, poi un risciacquo è bastato, e poi con l'aspirapolvere dentro. Eia. Io vado da Sini, quella viuzza via la Polo Torres, no? C'è Uruspin, è quella viuzza che continua, parallela a via la Polo Torres, dopo 100 metri rispetto a Uruspin c'è... ma vedo che avevano un bel di posto libero, mi dicevo, tu puoi venire tutti i giorni di sera oppure la mattina a un'ora X che ti diciamo, ci avevano un bel di posto libero mi. Ah, ho capito, no, io vado sempre dove c'è Mauris, dove c'è nella piazza dove c'è Eurospin di Pedanieda, io vado sempre lì, vado. Sono andato infatti sabato, ieri verso mezzogiorno sono andato. L'impianto non funziona, stiamo aspettando un tecnico per ripararlo. E meno male che non funzionava, perché avrei buttato 15 euro, no, perché me l'avrei fatta lavare da loro, no, loro prendono 7 euro per lavaggio esterno, con lo spazzolone grande, no, te la danno anche già asciugata e tutta. 7 euro per attirarla dentro e poi altre 3 euro se per caso vuoi lavarti bene i vetri anche dentro. Capito? E dunque, ma il vetro c'è bisogno di lavarmi dentro. Dentro già sono puliti, fuori e che sono sfondi. Però lo spazzolone già arrivava, già va bene. E io me la faccio fare così, perché loro hanno sì l'attivatore così manuale, fa da sé, e invece non c'è abbastanza potenza, invece me la faccio fare da loro, tanto più che così in 10 minuti me ne vado, loro lo fanno in fretta, guarda. Tanto loro in 5 minuti te la lava, te la asciuga, e loro altri 5-10 minuti per aspirartela dentro, poi te la profumano anche dentro. Anzi ti dirò, sai che non posso andare, siccome gli specchietti hanno preso tanti di quei colpi, no? Sia atti vandalici, sia colpettini magari entrando in qualche cancello, no? Che tengono poco, se vado in quello con le spazzole rotanti, no? Il tunnel, no? Me li straccia quelli, me li farebbe a pezzi, quindi ho preferito quello manuale. Ripeto, un bel po' di gente c'era, però la filona maggiore era per quello a pagamento, no? Che paghi 7 euro o quant'è adesso e te la lava nel tunnel, no? Tutto automatico. Bene, bene. Detto ciò, Giulio, io adesso mi ho messo fuori una pentola, sto per saltare in padella una pasta particolare, non so manco come sia. Come acceso non ho sentito nessuno, ho fatto 3 bip ma non zero totale. E io ce l'ho messo, ero al computer, tutta la sera al computer, così guardando un po' di tutto, un po' di elettronica soprattutto. Ma per il resto adesso mi sono stancato del computer e sono salito e ho acceso la radio adesso, tutto. Poi per il momento che tu stavi facendo prova, è tutto in quel momento. Sono arrivato, per cui non ho sentito nessuno in tutto il giorno, non c'è nemmeno preparazioni oggi, vabbè, comunque. Vabbè Marco, se devi andare a cucinare vai, preparati il pranzo, non la cena no, il pranzo, perché per te è sempre il pranzo questo. Anzi io non ho parlato, io solo minuti fa ho fatto 3 bip, però non ho parlato, forse era qualcun altro. Anzi credo puoi trovare doppio room in radio, ma c'è niente, sì, poi propagazione è poco e niente, non. Poi non c'è gusto nemmeno a divertirsi, parlo di propagazione buona però mi consegnaroni. Vabbè Giulio dai, nel caso ci sentiamo dopo, se no buon proseguimento di serata, buon tutto. E adesso mi metto ai fornelli. Ciao Giulio, ciao. Ok, ciao Marco, ciao. Allora già avevo capito bene che non eri tu, perché poc'anzi quando ho sentito quella voce, infatti te l'ho detto anche, ti ho scambiato per un altro, invece non eri tu. Allora avevo capito bene che non eri tu. Vabbè, dai, ciao Marco, ci sentiamo, ciao. Per il prossimo, buon pranzo. C'è qualcuno che ascolta sul canale 10? C'è qualcuno, se lo spengo tutto? Secondo me sono in 20 ascoltando ma non parla nessuno. È probabile che ci sono e poi nessuno parla. Vabbè, comunque. Se non parlano peggio per loro. Sai cosa faccio? Abbasso il volume e mi allontano. Così almeno, anche se parlano così non li sento. Meglio per loro se non entro. Va bene, buona serata, ciao ciao. Ciao, ciao Marco, ciao. Prova, 1, 2, 3, prova. Chi è? Attenzione, 10. Avanti. Ciao Marco. Chi è? Non ti ho riconosciuto. No, Antonio Riserva. Cianto, oggi sto scendendo meglio di radio, però il segnale tuo era più basso, perciò non si stava riconoscendo. C'era Giulio prima, l'ho salutato, stavo mettendo a mano i fornelli, ancora sono a cucinare, altre immagini. È uno scandalo, guarda. Poi oggi ho dovuto fare mille cose, la macchina da revisionare, pulizia dentro fuori, non hai idea di cosa c'era, c'erano le ossa di dinosauro in quella macchina, praticamente la lavo ogni revisione, ogni 2 anni. Vabbè, ma se c'erano le ossa di dinosauro vuol dire che è preistorica anche la macchina, Sì, è del 2000, è 19 anni, è preistorica, sto aspettando che scoppi la cinghia della distribuzione così ce la leviamo di mezzo. Perché non è mai cambiata? Oddio, no, sai cos'è, adesso siamo un po' a corto di soldi, questo mese paghiamo, vabbè, la revisione, eccetera, però siccome è stata mamma, no? Ho detto, mettiti il cuore in pace, dobbiamo fare la cinghia o catena di distribuzione, che non so se è nella o pelagica, sia a cinghia o catena, quello non lo so. So solo che quando parte ti spacca tutto, quindi devi buttarci la macchina. Solo la Fiat quando non poteri fai. È vero, noi abbiamo avuto la 1 Fire prima di questa e uno ci aveva detto la stessa cosa, che lì anche se salta cinghia o catena che sia non rompe nulla, basta ricambiarla e poi mettere in fase, non so, allineare qualcosa, ci saranno regolazioni a fare. Vabbè Anto, dai, c'ho la pasta sul fuoco, non sai che mi si bruci. Giulio era in ascolto, ma dalla il telefono di nuovo. Scusa Anto, devo scappare. Vai. Stavo ricordando una picchiata al microfono. Prova. Giulio, ci sei? Sì, ci sono Marco. Buonanotte, non sono Marco. Ah, ciao Giulio. Ah, Antonio, ciao Gio. Ciao Antonio, ciao. Mi stavo guardando la televisione. Aspetta, che faccio? Il volume, perché sennò non capisco. Allora, eccolo qua. È così. E vabbè, no, io adesso stavo pensando, adesso faccio la fotografia, che ho messo in cantiere una nuova antenna, così ho già fatto la bobina, è solo che mi manca un pezzo di 213, non ce l'ho, pazienza, ma già lo buco, già lo procuro, solo lo compro. E quanto te ne sei? 2-3 metri, te li do io. Ma che 2-3 metri? Non è bastato un metro. Ce n'è anche in abbondanza, ce ne vogliono 56 centimetri più altri 9 centimetri, praticamente in tutto 70 centimetri, 80 centimetri, 80 centimetri, 90 massimo, un metro là. Se non vuoi te lo do io sì, va bene, già mi va bene, la bobina l'ho già preparata, adesso appunto mi occorre quello per poter fare l'impedenza e poi il condensatore. E poi sei a cavallo anche tu, ma sempre con lo stesso modello di quella là? Sì, sempre quella, allora, sempre quella sto facendo, allora, no, non la cambierò, allora va molto bene, tanto che... Io giù non ho più la pazienza di avere una volta, non ci riesco più. Come non ci riesci? È una batteria, se tu vedi con me questa cosa, è una batteria, ci vogliono... Al massimo, ma poi sto esagerando, facendo lentamente, 2 ore è finita. Non è detto che la deve fare tutto in una volta, le va per tu, io per tu, ma e così via. Ti ho capito, sì, però non lo so, solo più, entusiasmo, con la furia, solo più. Vabbè, se non hai più entusiasmo, pazienza, io non è che ne ho necessità, la sto facendo perché... Così, per il gusto di averla, così ce lo doppia e basta, non se ne parla più. Così quando si spezzerà quella, invece lo faccio quando sto a riprendere e a rimetterla a posto, c'è l'altra pronta, tutto lì, faccio così. Ah, perché sto costruendo la gemella, così c'hai la sostituta. Esatto, la stessa antenna, stesse misure, tutto uguale, non devo cambiare niente, perché visto e considerato che quando va bene, con quelle misure, per quale motivo? Che motivo c'è di cambiare? No, perché ci sono, ad esempio, sul computer ci sarebbero altri progetti con diverse misure, là. Ma io faccio quella, visto che va bene, me la tengo quella così e non se ne parla più. Sì, in effetti sì, ci sono alcuni progetti con delle misure. Senza le misure, si tratta di pochi centimetri, si tratta di spostare alcune cose, ma alla fin fine non è scarto, alla fin fine sono sempre uguali. Sì, in effetti è quella, non è, magari una è accordata su una frequenza, io la sto accordando a centrobanda, la sto accordando, voglio fare, cioè come avevo fatto la prima, dai. Accordata su, se no si può fare accordare su altre frequenze, magari variano un pochino le misure dell'impedenza, anzi non dell'impedenza, l'impedenza è sempre quella, dove va attaccata, l'altezza dove va attaccata varia, ecco, tutto lì. Sì, lo spostamento del condensatore lungo il cavo. Sì, quello lì è sempre uguale quello viene, solo l'impedenza, quello da 56 cm, che è l'impedenza, sarà lì a seconda della frequenza dove tu vuoi calcolarla, no? Perché c'è un calcolo da fare, un calcolo matematico, in base alla velocità di trasmissione del cavo, per cui a seconda di dove la vuoi far risuonare meglio, e poi risuona su tutti e 400 canali, non è quello il problema, ma per dirti, soprattutto per la 27 in questi 40 canali, cosa vuoi che sia, non è un problema, ma a seconda del canale che vuoi risuonare tutta la perfezione, fai quel calcolo, tagli con la misura e lo installi, l'impedenza la installi con la lunghezza che ti dice il calcolo. Ti ho capito, comunque io non lo so, non è che sono molto fiducioso, perché io ho visto 3 o 4 di queste antenne autocostruite così, viste proprio, viste toccate con mano, ma funzionava neanche una, perché ripeto, non mi sono piaciute, dai. Vabbè, poi è un altro discorso, se a te non ti piace è un altro discorso. Però io non è che ho inventato niente, io ho solo copiato, per cui così ho fatto, così è riuscita. Dunque non ne vedo il motivo, per quale motivo non mi dovrei riuscire anche la seconda, avete considerato che faccio le stesse misure e faccio tutto uguale. Quello. Io non ho nessuna presunzione di dire la già inventata io non ho inventato niente, a differenza di qualcun altro che se l'avesse in testa che l'avrebbe incontrata, inventata lui con l'antenna, invece poi l'ho sgamato e si è pure offeso, ma non faccio nome, ma già mi capisce lui se è ascolto. Sì, no, giù, io non è che sto dicendo che non mi piace come antenna, no, tra quelle quattro che ho avuto modo di vedere e toccare con mano, non mi hanno, come si dice, soddisfatto, anche perché ricevono come una gran plin, tutti quanti la elogiano, dicono, ma questa antenna qui, là. Però ripeto, io l'ho vista in funzione, ma funziona all'incirca come una gran plin, non è che c'è l'intelligenza, cioè non la puoi paragonare a una 5 ottave, neanche a una mezz'onda comunque. No, assolutamente, guarda, è superiore alla 5 ottave. Tu leggi bene il progetto Sirio, siccome questo qui è copiata proprio dalla Sirio, è copiata e te la garantisce addirittura con uno o due dB in più della 5 ottavi, addirittura della Mantova Turbo, che è la migliore in assoluto della Mantova come trasmissione e anche come ricezione. Per cui fatta al computer, studiata al computer, non l'ho inventata io, no. L'ha inventata la Sirio, è una casa abbastanza seria, per cui vedi bene, tu guarda tutto, leggi tu, e non a caso poi costa anche di più della Mantova Turbo, tanto mai di nulla, perché la Mantova Turbo costa 143 poi euro, io non so perché ce l'ho. E questa costa 160, sicché vedi bene che a questo punto non costerebbe così tanto un pezzo di vino, perché è un diporo, meno, tutto sommato è un diporo alimentato al centro, tutto lì. E ho visto, è un diporo praticamente agganciato a una canna da pesca. Sì, no, non sto dicendo quello giù, no, per carità. Poi chiaramente il guadagno di antenna, uno può dichiarare quello che è. Anche la Mantova dichiarava 6 decibel, quando poi alla fine 3 e mezzo, neanche 4, anzi dirò di più, forse ce l'ha più guadagno la Mantova 5 che la Mantova Turbo, anche perché la Mantova Turbo forse è stata la pecca della pecca della marca delle antenne, perché secondo me è la peggiore che hanno fatto. Ma io dico invece che è la migliore che hanno fatto. Fin quando la Mantova Turbo non perde la cortocircuitazione, perché è cortocircuitata, sono come tutte le antenne, l'unico problema è quello, però anche quando perde il fatto di essere cortocircuitata funziona alla grande, perché io l'ho tenuta almeno 2 anni, ce l'ho sempre, ripeto, è nuova, quando l'ho smontata è la nuova, anche col piattello dove tutti quanti li cercano, si avvicinisce a quello, dove ci sono attaccati i radiali e poi non fa più contatto, ma adesso, la mia lasingata non si è avvicinita per niente, lucidissima. L'unico problema è che c'è questa bobina all'interno della base, c'è una bobina che è fatta con filo di avvolgimento, no? Praticamente quello è smaltato, in poche parole, che alle volte a forza di muoversi lo stilo centrale magari non riesce a fare più contatto con la massa, questo filo, perché tra la massa e lo stilo centrale questa bobina è una bobina di poche file, mi saranno 5-6 file grosse, di diametro all'incirca sarà 5 cm massimo, là, esagerando il diametro, e dunque perde il contatto e allora non è più cortocircuitata. Però anche se non è cortocircuitata, la resa elettrica è uguale, identica, perfetta, senza nessun problema. solo che a me mi dava fastidio perché non era controcircuitata, perché io pensavo, ma se arriva la corrente elettrostatica è un problema, perché non essendo più controcircuitata. Ma come antenna ti posso garantire che funziona perfettamente, perché meccanicamente è di una struttura eccezionale. Tu pensa che lo stivo centrale, la base è 4,5 cm, andando a scalare ai vari elementi dello stivo centrale. E poi i radiali sono da 10 mm sono di diametro, sono butti dentro, è un tubo da 10 mm, ce ne sono 8, ce ne sono. L'unico problema che io riscontro è se in un posto dove tira molto vento, come dalla mia parte, qua la notte io la sentivo che fischiava nel radiale, era per quella che l'ho tolta, se no io non l'avrei mai tolta, perché l'antenna funziona che è una meraviglia. Sì, no, ce l'ho anch'io montata, ce l'avevo in via Giotto quando abitavo lì, davanti al turbo, ce l'ho smontata, però ripeto, ce l'ha piantata 3 anni e quando l'ho smontata non serviva più, la tutta quanta completamente arrugginita, radiali spezzati, tutto quella parte lì sotto il radiale era tutto marcio, mentre l'avanto va uno che aveva in campagna, dopo 20 anni che è ancora lì, piantata in terra e ancora buona. Sì, perché l'avanto va uno ha i radiali di cose, di resina, certo, quando già lo so, quando sì. Però ripeto, io un minimo l'ho tenuta 2 anni piazzata e ti sto dicendo che l'ho svoltata lucida, perché è nuova, veramente. E poi ho voluto fare così, il gusto di fare questa antenna, perché in realtà io ce l'avevo la Game Master originale, in realtà io ce l'avevo, l'avevo presa da un amico. E poi invece l'ho regalata a un mio nipote, l'ho regalata, mi ha convinto che l'ho regalata. E poi tutto sommato, diciamo che me ne sono quasi pentito, non proprio, però, perché gli ho un ragazzo che se la meritava, per cui gli ho dato, ma non gli ho dato solo quello, gli ho dato anche apparecchiature, gli ho dato sempre quello. E poi mi è venuto in mente, adesso me la faccio io. Mi si è considerato che è possibile costruirla, poi quando l'ho vista al computer, ho fatto vista, questa è la pesceria, ho preso, me la sono costruita e va bene. Sì, no, non sto dicendo che non va bene, però ripeto, molti la elogiano, altri no, e quello è, io quelle che ho avuto modo di vedere costruite, le persone sono lamentate tutte, molti sì, qualcosa c'è, qualcosa no, però alla fin fine spendi comunque di quattrini. Ma io invece ti dico di più, qui a Sassari c'è la Salvatore, per l'elevatore, ed è contentissimo. Ce l'aveva Sandro il Porto Torres e arrivava più forte di quando aveva la Mantova, intanto, per me è giusto. Poi purtroppo lui, siccome lui abita in una zona dove c'è molto vento, gli era stressata al vento, gli era stressata, allora la smontata e poi si è distratto di tutto, non ha più niente ormai e non è stato più frequente. Per dire, però nel periodo che ce l'ha avuta, ti posso garantire che è stato da Porto Torres mi arrivava più forte di quando aveva la Mantova, ma questo l'hanno detto tutti, non solamente gli sto dicendo io, l'hanno detto tutti, per cui chiedi anche a Claudio che il segnale gli arrivava anche lui, gli arrivava ed era sicuramente superiore a quello della Mantova Turbo o della Mantova 5 che avesse prima, insomma della Mantova, che tra la Mantova Turbo e la Mantova 5 non è che ci sia poi questa grande differenza, anzi non ci fosse, non c'era niente, però la casa la Mantova Turbo per un mezzo dB in più, ecco, tutto lì, niente di più. Sì, QSL, sì, però dico, Sandro aveva la Game Master originale, però non aveva l'auto costruita, è quello che ti sto dicendo io. Appunto, è quello che ti sto dicendo, ce l'avevo quella poi l'ha data a me, hai capito? Quella poi l'ho presa, e quella poi io l'ho regalata a mio nipote. E me ne sono pentito, sinceramente, me ne sono pentito perché al limite gliela potevo costruire, magari davo quella autocostruita, e invece no, domani devo ritirare, e io ho quella autocostruita, capito? Ecco qual è. E però non avevo ricavato tutte le misure, mi avevo ricavato tutte le misure io da quella, per cui è fatta così e buco. Sì, ti capisco, no, io ti volevo dire quello proprio, non sto mettendo in dubbio la funzionalità della Game Master originale, anche se la Game Master originale funziona benissimo, ha una buonissima antenna, però a molti non piace perché flette troppo, secondo il personale si rischiano di sistemi, però funziona. Però queste autocostruite, dico, sto dicendo io, di queste autocostruite che ho visto, su 10 ne funzionano 2, 1.5, via con secondo. Ok. Eccolo qua. Ok. Capito? Dunque, il discorso è quello, io ne ho ricavato le misure, poi per quella, poi l'ho confrontata con quello che ho visto al computer e mi sono convinto, ho detto, ma che è finita la messeria, si può fare. E così ci ho provato. Vedo che funziona. Al primo impatto, ti sto dicendo, io non ho fatto nessunissima modifica. Ho rispettato quelle misure, l'ho messa sotto, ho messo l'osmetro, non è che io ho analizzato l'antenna, no, là giù di rigore. Ho messo quella, tranquillo, ne ho tre l'osmetri, tra cui ho anche quello che una volta mi avevi dato tu, ti ricorderai, no? Quello che mi avevi dato tu. E nessuno, va bene, tutti quanti, uno e due di ROS, e va più che bene, ma questo per tutta la gamma della 27, no, fa due ganari, no, per tutta la gamma. Quello che mi sembra di questo, che i calcoli sono questi, ho visto controllato, ho guardato le volte, sono pensato su, però perché molti finalmente non hanno, altri dicono addirittura che non. Io non vedo una addirittura che non esce neanche in chive. Questa roba non me la risulta, perché io, guarda, io dopo che l'ho fatta io, cosa ho fatto? Ho preso e l'ho consigliata a Franco. Franco, quello del Monte Basso, e lui ce l'ha fatta. Sarebbe quella attaccata. Presente c'era la tappa dove c'è il filo dove si stende la roba di casa. Ecco, 40 cm dal muro praticamente. Lui ce l'ha attaccata e messa lì, attaccata a quella tappa lì. Lui abita sotto di lui abita, c'è un altro piano, un altro appartamento. E questa antenna esce appena esce fuori dal tetto, la punta esce appena. Beh, ti posso dire che Franco a me mi arriva, non mi più 5 qua, e abita molto Rosario Basso, in zona della Sicilia, per dirti, no. Si crede bene, e anche lui ce l'ha fatta. Gli ho detto, guarda così e così, guarda il computer, gli ho mandato io delle fotografie su WhatsApp, gli ho mandato, lui l'ha guardato, poi ha aperto il computer, ha copiato e ce l'ha fatta subito. Anche lui, niente rosso, niente, va benissimo. E ho visto se fa anche i collegamenti con lo coso, no? Come si chiama, con l'estero addirittura, non solo con l'Italia, ma anche con l'estero. E io da poco ho fatto la Romania, proprio da poco, una settimana scorsa, poi ho fatto la Croazia, ho fatto la Spagna, dappertutto, l'Austria, dappertutto, vedi bene che arriva. Io ho capito, sì, per quello che ho sentito, per quello che ho visto, poi uno magari sai, perché tutto ciò che si dice bene, quello che ho visto io sì, no, per carità, non avevano stazionato, non è che si diceva l'antenna, magari che si va a no, non avevano stazionato, però attenzione, alla pari di una gran pena, di una buona, sì, poi la stessa riguarda, c'era autocostruita, quello che abita lì nella zona della Tedolce, che è lui che aveva incominciato a fare a copiare queste antenne così, e le aveva fatto diversi, le aveva fatte, lui ce l'ha montata, e arriva fortissimo dappertutto. Io dopo non te ne faccio, ma che non mi piace manco un nome di una persona del genere. Comunque per dirti, no, lui ce l'ha già da anni, forse è il primo a Sassari che ha avuto l'idea di autocostruirsela, sempre perché l'ha copiata al computer anche lui. Ho capito, dai, non si manca neanche, figurati, non so per quale motivo, ma per dirti, no, e che vedi bene, anche lui la conferma ce l'ha. casa se me la fa, è chiaro, se uno non la fa con criterio, con rispettando le misure e poi pasticcia, allora il discorso è diverso. Beh, è chiaro, non è una cosa, e uno se la fa attentamente come si deve, rispetta le misure, rispetta tutto, rispetta e l'antenna funziona, altro che se funziona, è come. Ma no, guarda, io te devo dire più, io ho già fatto, la carica l'ho già fatta, già pronta, metto la una canna alla pesca e sono già pronta, ma comunque non sono sperantoso in questi giorni. Continua, vedrai che già riesci. Che cosa si calcata non deve essere di quella a carbonio, niente, deve essere verde, che non ci sia ferro nella canna, perché allora la cosa non va bene. E il tubo poi ricordati che va sotto il PL, non deve entrare dentro la bobina, il tubo di coso, che poi lo metti isolante è ancora meglio, o per dire, no? Ma quello che va attaccato al palo poi, no? Se devi mettere un trasmettore questi 30-40 cm di ferro per poter attaccare al palo, che deve essere sempre sotto il PL, non mettere nemmeno un millimetro dentro la bobina. Bene, bene, no, la canna da pesca però non l'ho presa, l'ho preparata tu, ho preparato il tutto, però la canna da pesca non ho preso tutto, è ancora meglio pescare. Io ce l'ho la canna da pesca, adesso ce l'ho in bottega, ce l'ho qua, ma la bobina me la stavo facendo qua, ho utilizzato un pezzo di tubo o di quello di scarico da 63 mm, poi attorno cosa ho fatto? Ho preso e l'ho ingrossato fino a 66 mm con della carta a gommata, no? Fino ad arrivare a 66 mm, misurata con carico e tutto, e poi ho fatto la bobina sopra. Poi ci infilerò un pezzo di tubo di quelli da elettricisti, di quelli da impianto industriale, no? Quello rigido, e dentro, no? E la canna sarà infilata in questo tubo da 32 mm. E per cui va benissimo, no? Non ci sono problemi. Si posso garantire che funziona. Poi tagli un batto, insomma. Poi per giocare, sai cosa ho fatto? Per credere che è la originale. Hai sbagliato la bobina, l'ho lastrata con nastro rosso. Un po' per proteggere da quando piove, così almeno nel colpino non passa umidità, eccetera, no? E sembra la Game Master originale, perché in realtà la Game Master originale usa il cavo 303 e usa come cosa, no? Ed è rosso come cavo, ecco. Sì, l'ho vista. Questo fatto di canna o non è una canna da pesca, non ha niente a che vedere, in teoria potrebbe stare anche il tubo di plastica. Certo, anche il tubo di plastica va bene, è sempre quello. Sempre quello, la canna te la puoi fare anche con i tubi da elettricista, le rinforzi uno dentro l'altro, e poi il filo lo infili dentro, oppure lo metti esterno addirittura, fissato ogni 30 cm, 20-30 cm, ventilato, no? Però in modo che non faccia la cosa, e te lo fai anche così, sempre quello. Non è detto che devi usare per forza la canna da pesca, no? La canna da pesca io l'ho usata perché tanto costa 16 euro, perciò ho comprato quella e ce l'ho già pronta, ecco, non devo costruire niente con dei tubi, che poi tra l'altro i tubi ce li ho, ce li avrei anche, me sono abbastanza da quando avevo fatto i lavori qua, per cui ce ne ho ancora, un po'. Ma al limite uno se le compra, mi pare che 50 centesimi una secca da 32 lunga 2 metri, se puoi immaginare, le altre più sottili costano ancora di meno. Magari la canna da pesca riesce a prendere, mentre il tubo di plastica si cristallizza e si spezza. Questo non posso dire se la plastica poi si spezza, comunque già è abbastanza resistente quella. Io come coso dentro la bobina, metto il tubo, dove ho costruito la bobina, ci infilo prima un pezzo di quella fosse quel tubo di foto dai elettricisti, da 30 a 2 c'è il filo, siccome mi sono fatto anche le boccole una sotto e una sopra, in modo che rimanga proprio centrale il tubo, no? Così non rimane nemmeno spostato, e lo faccio uscire fuori dalla bobina, lo faccio uscire una quarantina di centimetri e la cannata fuori dal filo lì, perché ho già misurato tutto quanto e va benissimo, entra perfetta la base della canna, entra perfetta dentro il tubo da 32 mm, perfetta, giusta, giusta, giusta, senza gioco, senza niente. Sì, no, è come quella che ho smontato io, ne ho una, che ho smontato che non funzionava, di quella che ho quella frangelina l'avevo fatta io a una persona che non metteva bene il tappo, quella frangelina l'avevo fatto io, gliel'avevo fatta, gliene dovevo fare tante e gliel'ho fatto tante, gliel'ho fatto e da più lato un burro, una matassa di capo dell'RG8 per sempre quello, e poi ha fatto il vegliacco, ma non mi interessa, lasciamolo prendere, mai le veglia, capito? Ecco perché la mano appunto, sì, che si può immaginare, ce l'avevo fatto io, ne avevo fatto diverse, con quelle che ne avevo fatte potremmo fare almeno 6 o 7 di o anche di più di antenne, ce l'avevo fatte un sabato mattina, mi sembra che era un sabato mattina, ce l'ho fatte al turno, sono belle fatte, non so, eccetera, come si deve, per cui, ma comunque, sono metallista. Quello già non me ne pento. Sì, vabbè, giù. No, invece la mia idea era quella di mettere tappo di legno, niente, di fare proprio e poi il ripino di resina, quella che usiamo noi per fare le muffole, sai, i collegamenti dei capi sottoterra, e così, che è una sostanza di componente. Riempirlo proprio di questa resina, poi si indurisce e diventa tutto un corpo. Sì, infatti, il tubo infatti si doveva riempire con quella poliuretanica, diciamo, con la schiuma poliuretanica dentro, anche per evitare di arrivare in umidità alla PL, no? Perché il PL è andato, se no se può scendere del qualche goccia d'acqua dentro, e invece quella tu ci metti il tubo, che ti stavo dicendo, quello elettricista, ci metti quello, e poi dentro a quello lo puoi riportare anche con un pezzo di legno, con un tubo, anche un bastone di scopa, per dire ci sta bene dentro, e lo riempi tutto quanto di schiuma poliuretanica e lo si muove, è troppo la base, e come fa a troncarsi? Non si potrà mai troncare. No, io sto dicendo proprio non schiuma poliuretanica, sto dicendo proprio resina, sai come la resina, quella che usano i carrozzieri, però invece di essere impatta, questa qui è il componente di liquida, la butti, va praticamente, scende come se fosse, che ne so, densa come la vernice, dai, un tantino più densa della vernice scende, poi la lasci stare lì 10 minuti, diventa secca, la puoi passare anche al torno. Sì, certo, ma forse per quello vedo anche quella specie che sembra così stesso, non mi ricordo come si chiama adesso, che la vendono, dove la vendo, aspetta se mi ricordo bene, si può fare rondelle, puoi fare tutto sempre quello, è un materiale plastico, ma è durissimo, adesso non mi ricordo come si chiama, e quello se volendo puoi utilizzarlo anche per farti le boccole, per fare tutto quello che vuoi, io già ho la possibilità per fare le boccole, se voglio dire, prendo un coltello per la colonna, faccio il primo buco dello spessore del tubo, e poi la metto nella macchina, la metto e la faccio rotonda e la infilo dentro questo tubo di scarico di lavandino, quello che lo chiamiamo di fluviale, dai, questo tubo rosa, color arancione, dai, in modo che mi rimanga sistemato bene. Mi metto uno sotto e uno sopra, a questo pezzo di cose mi rimane dentro, mi rimane solido senza nessun movimento, capito? Io ho capito, vabbè, ma tu con la tua figlia puoi fare quello che vuoi, già ti credo, lo puoi fare anche sul pensiero, quando là quanti altri tubo dentro lo puoi riportare tutto, capito? Poi lo puoi chiudere solo, ti puoi fare solo due tappe di resina per evitare di sprecare soldi in resina, fai tutto il cilindro di legno, lo incanti dentro e lasci un centimetro su, un centimetro giù, poi ti butti la resina liquida, come si asciuga ti dà una leggerezza e sei a cavallo. Eh beh, certo, certo, è ovvio che può fare lui, ma posso fare sì, ma posso fare lungo quando mi piace. Tu pensa che una volta, tanto per dire ne una mia adesso così, il 448, a me mi occorreva un mattone per la tenda di 3 metri e 30 centimetri lungo, perché io in facciata ho la finestra che è larga 3 metri, e mi occorreva questo mattone, io lo volevo tutto intero. Sono andato a trovarlo già fatto, perché li vedo il bastone per la tenda di quelli da 3 cm e mezzo, una cosa così di diametro, e non l'ho trovato da nessuna parte, e io ho stirato e ho detto no, lo voglio tutto in prima e tutto in terra, lo devo fare, e ci voglio che me l'ho trovato io lungo 3,30 m e l'ho tornito tutto io, addirittura l'ho tornito col trapano, pure un trapano, ma anda, da una parte ho messo un supporto con un cuscinetto, dall'altra parte ho messo il trapano fissato al banco, nonostante che io non avevo il tornio, non sono riuscito a tornirlo 3,30 m in loco, scusate un po', come in loco. Che non solo che è torcio, ma è pure un fumetto a gusto. Beh, quello sì, ma quello è un altro discorso, però quando è lucidato è una meraviglia, è perfetto. Non a casa, non a caso io, qui a casa ho la scala che sale dalla sala alla zona notte, e tutta in loco, e poi c'è un'altra che sale dalla zona notte alla mansarda. Quella via è semicircolare, semi a chiocciola, inizia con tre gradini a giorno e poi prosegue a chiocciola. Ho mosso il piede e mi si è sganciata la corrente. Ha parlato di dire bulletti. No, e ciò, questo si prolunga come sono accampato ancora qui in campagna. Questo tavolino in un angolo della stanza e la presa sono tutte da un'altra parte, quindi ho un pezzo di prolunga ed è corta, quindi ho mosso il piede, saltato tutto e devo far bene con me stesso. vabbè, succede anche quello. Si è visto altro, per cui vedi bene che il problema non ce ne sono. E io mi ero... Ragazzi, glielo avevo proposto io stesso, ti faccio le boccole, ti faccio così, il tubo rimane bello, fisso, la misura e tutto quanto. Mi ha aggiunto un poco, e la boccola invece. Vabbè, meglio fare ecco. Vabbè, ognuno sa di sé. No, ripeto, io con la busta l'ho... L'ho aperta, aperta per un giorno, ok? E poi l'ho trovato il problema, non era, ma per trovarlo comunque la canna pesca ti la chiude la fa. Perché quella non so come faceva, perché le riempiva tutto di peniforzala, le riempiva tutto di poliuretano, così schiuma, e dunque non si poteva nemmeno piegare, nemmeno accorciare. Però non è un lavoro ben fatto così. Se devi svuotarla, gli elementi devono essere sempre liberi di poterli inserire uno dentro l'altro. Per cui almeno quando lo devi svuotare, poi devi fare qualche lavoro, eccetera. Anche per vederlo sempre il filo, alle volte se si può oscillare dove faccio collegamenti. Anche se io ho messo con la termorestringente, con la plastica termorestringente, gli ho messo, ne avevo un paio di pezzi e mi è bastato per chiudere, non è che gli ho nastrato, io. Però sto dicendo, l'ho fatta come originale o proprio come deve essere. Sì, e beh, ti capisco. No, vabbè, anche io adesso che la faccio, se la termino. Mi viene voglia di terminarla, proprio no, non le metto capi dentro, lo faccio scorrere tutto fuori, così poi domani posso decidere di fare qualche cosa. Beh certo, quello sì, anche fuori va benissimo, no, non ce ne sono, sì, figurati. dico, e poi io ho accesso a mano di sacco con la roba elettrica, ciò mi ha dimostrato 12 anni l'elettricista, ti permetti? Oppure ho fatto anche nel contempo l'elettricista e antennista, perché se vuoi immaginare, poi sono diventato falegname perché la vista dove lavoravo aveva fallito, non so se te l'ho mai raccontato. E allora mio padre ha fatto, io vieni con me, ero già un giovanotto abbastanza grandetto, ma sapevo il mestiere, sapevo, lo so ancora, ma ha già cominciato a realizzare nel mese tra l'agliaio. E quindi già ti sei dato da fare? Sì, ma l'altro ti era contatto. Appunto, si chiede bene, che a quel punto lì, insomma, non è che sono del tutto sprovveduto, assolutamente no. Dunque, quando mi metto a fare qualcosa di elettrico, so quello che devo fare, so quello che sto facendo. Senza nessuna presunzione, ma è così, la realtà è quella. Vedi, invece a me mi è sempre venuto a fare il falegname, ma lo posso fare che ho uno macchinari. Sì, è vero, sono io il più bravo, Buonasera a tutti. Buonasera. Guarda, adesso ce l'hai la troncatrice tu, o tu, ce l'hai la troncatrice? Sì, ce l'avevo, me l'hanno rubata e me la sono ricomprata. Hai visto? Beh, me la sto trasformando, me la sto facendo come sega circolare da banco. Io l'ho utilizzata come la tua. Sai perché? Perché quella me la porta a casa, siccome funziona a 220, funziona. Tutte le macchine che ho che funzionano a 220, come ad esempio la colonna, Trapano, o la ballerina, il carro armato, o la troncatrice, tutte le macchine che funzionano a 220, quelli quando me le disco non li ho a nessuno, quelli me li tengo e me li tengo a casa. Poi io sono un tarlato e quando voglio fare qualcosa io con quel sistema, come la sto trasformando, posso fare anche dei mobiletti, per dire, se mi attaccavo di cambiare un mobiletto, per dire a casa prendere, lo posso fare anche in Matada. E allora se non porti i macchinari qui da me in campagna, e quando li vuoi fare ti scendi qui e te li fai. Quella sarebbe una buona idea. Quella già sarebbe una buona idea, perché prima o poi, se la sapremo prima ti davo la sega a nastro, e poi te l'ho regalata a Roberto, se vuoi immaginare, ed era una sega a nastro eccezionale, perché intanto il piano a 90 prima di tutto, col piano inclinabile anche a 45 gradi, intanto poi da spendere una, cosa che oggi, la carità, le macchine di oggi ti metti la tavola sopra e barcolla perché è leggera, lì da pesare roba di 8 quintale, ti puoi immaginare. L'ho regalata, ma sai perché l'ho regalata? Perché è troppo alta. Era troppo alta, sai, era quella grande. Questa è solo un altro 5,70 m, solo un altro. La sega ci vogliono 5,70 m, che poi tra l'altro era anche nuovo perché l'avevo appena comprato al poco. L'ho regalata perché proprio non potevo tenerla, ecco. Ti capisco, quella già sarebbe servita a tagliare legna. Sai quanta legna lo taglierei io a motosega, con quella invece te lo credo, tu pensa a un motore, mi sembra una roba di 5 cavalli, tanto ma dici in una, 4 o 5 cavalli, no, 4 e mezzo per l'esattezza, 4 e mezzo, ha una forza, quando a partire si impiega, perché ci sono i volani grandi, no, a partire si impiega proprio, facciamo e poi partiva. Dopo quando la stagia mi cadia, mezz'ora gli rende, non è fermato. Gianni! Cosa ti vuoi mettere? La falegname lì a campagna? Ma io ce l'avevo parte di macchinari di falegnameria già in campagna, solo che quando poi si è in campagna di mio babbo, non in campagna qui dove sono adesso, solo che poi quando mio padre si è ammalato, mio fratello e mia mamma erano sempre a Lurizzano per mio padre, che stava male, una notte sono entrati e siamo portato via quasi tutto. Cazzarola, guarda come si ristudia noi, hanno guardato i movimenti. Chiaramente, noi siamo portato via la sega circolare, la circolare a mano, siamo portato via la troncatrice, siamo portato via... Avevo anche una macchina, una combinata piccolina, con doppie, l'ha ribucciato pure Ghisa. Anche con la circolare a mano, si può arrendere a tagliare bene, tanto tante cose o altro. Ti prendi un pannello, ti dico come fai, te la usi attaccata, capovolta, te la metti sopra un banco e ti fa da banco sega, da sega circolante fa. Ci ho pensato giù a fare una cosa del genere, però se vuoi fare un pannello deve essere perfettamente disegnato, deve essere in piano. Perché la volevo proprio fare, perché a me piace fare delle progettine così, mi sono piaciuto e poi mi rilassa tantissimo lavorare in legno, davvero. Ma è semplice, ci vuole poco a fare una cosa del genere. Se compri un pezzo di multistrati oppure di MDF, di quello grosso da 2 cm, dai, ti prendi, ti fai un piano anche che so io, 60x70 ad esempio di grandezza, e la sega circolare fa il taglio al centro, va fatto bene come si deve, va fatta in linea, va fatta dritta, se no si va in luce, e te la attacchi a questo piano, l'attacchi, no? E poi il disco fuoriesce, ti metti una guida, io ti posso far vedere come si fa, ti metti a fare la guida, tutto quanto, puoi tagliare anche a squadra, puoi tagliare in larghezza e a tutto quello che vuoi, guarda, puoi fare anche i mobiletti per casa. Sì, giù, l'ho visto tempo fa qualcosa del genere, no, di quelle circolari a mano ne ho due, una grande e una più piccola. Ecco, quella grande se la usi così e c'è un disco più alto, puoi essere di più dal piano e puoi tagliare anche pezzi di un certo spessore, per cui va bene così. No, io ne avevo già fatto una da poco, ho un motore elettrico, pensa, un motore di betoniera, elettrico a 220, uno ne avevo a 380, l'ho regalato a quello che si affianca a me, quello che vende gli acquari, i pesciolini eccetera, l'ho regalato perché a 380 a casa non è stesa. E con questo motore ho fatto la cassa, ci avevo messo una cinghia automobile, ci ho messo un asse eccetera eccetera, con tutte le boccole, che addirittura le boccole sono fatte di legno, e ci ho messo il disco e ci ho messo, e ho provato a tagliare, caspita come taglia, una meraviglia, poi l'ho smontata, perché le boccole sono di legno e non vanno bene, però ce li ho anche di ferro, ce li ho e posso utilizzarla. Solo che è un pochino pesantuccia perché c'è il motore che è pesante sulla cassa e tutto il resto, mentre invece con la taglierina, con la tronchesina, quella che ti stavo dicendo, ci ho messo dei listoni, ci ho messo uno avanti e uno dietro, ci metto il piano sopra, faccio il piano largo, anche 70-80 cm, quanto mi piace, e lo posso utilizzare sia per sega secolare che per tronchesina, capito? Ho capito, due o per uno che è così, no, perché uno se vuole fare qualcosa di hobbistico già riesce, oggi come oggi ci sono tante cose in giro, poi puoi recuperare i motori, prima era un problema, adesso le macchinette comunque già costano poco di per sé, anche se comunque io quando avevo comprato la prima macchina per legno l'avevo pagato 700 euro, ma 700 mila franchi, comunque. Sicuro, devi sapere che ma giù costava un milione e 200 mila lire allora, perché c'era la lira, no? Poi ne avevo un'altra, 380, quando lì è venuto un amico in bottega a tagliarsi dei pezzi, io non so come ha fatto, me l'era buttata sopra il tavolino. Mi aveva rotto l'asse, mi aveva rotto, l'avevo riparata tutto quanto, e poi col tempo l'ho tenuta quasi 50 anni, quasi, senza quasi, perché l'ho portata al ferro vecchio da poco, l'ho portata, c'era il motore che voleva riparato, c'era l'avvolgimento che ormai dopo 50 anni è andato in ammazza, perché l'isolamento toccava la carcassa e dunque c'era la scorsa, no? Cioè, allora l'avevo messa da parte e poi alla fine c'era la lampada e vado, ma chi me lo fa fare? Vado a fare l'avvolgimento, voglio 300 euro e vado con 300 euro e compro la macchinetta nuova da Bricome. E poi c'è il discorso che quelle di allora erano buone, sì, anch'io ce l'ho una di quelle troncatrici tutte in ghisa, ma pesa di un trono. Adesso ce lo fanno, che pesano 20 kg, questo ne peserà 300. Quando è in guida pesa molto, No, ma poi quando arriva fino al 80, perché non mi interessano più, capito? C'era fino al 80, altre fasi, per cui non andavo bene. Questo è a 220 non lo do nessuno, manco bastogno. Tu immagini cosa ho io a 220, ho la trochesina, ho il cane armato, ho la sega circolare a mano, poi ho la colonna trappano, poi ho questo motore a 220, sempre elettrico, poi cos'è che ho? E altre cose, insomma, la ballerina, tutte queste cose, praticamente se me le porto a casa, adesso mezza ballerina mia in casa. Non dici solo a piantare la soffitta che fa 380, e la pialla, ma 380 è adesso. Ho visto l'altro giorno la prima, ma la pialla da 150 euro, sì, non si fa le tavole da 40, ma fino a 20, 25 ci arriva. No, anche la soffitta mi posso fare, perché ho fotografo, sempre con lo stesso sistema che va inserito la taglierina, la trochesina a mano, con lo stesso sistema si può inserire il pantografo. Io ho un pantografo che ha, mi sembra, 26.000 giri a minuto, mi sembra che fa, si può immaginare, che il pantografo che avevo pagato più di un milione, allora questa vedere, non vuoi che il pantografo lucido, che appena crea taxi si bruciano. Quello che ho io è proprio professionale, è un pedestante, che vuoi immaginare, per dire, no. Anche qua non si fa la topic, perché ho anche tutte le presenze, io ho tutto, non cosa mi manca a me. Riprendi già, dai, facciamo riprendere, sennò qua... Ah, no, sono in ascolto, dai, continuate, ascoltiamo. Tanto io non ho interesse di queste cose, quindi ascolto e basta. No, io con la mia moglie non c'ho proprio nulla, giusto qualche cosa per la raspa, roba così, roba tradizionale, non roba elettrica. No, niente di che, no, fare legnaveria non è facile, l'unica cosa è che lavoravo con le mollette per stendere, quelle sì, mi piaceva fare portapenna, tutte queste cose qua, barche. Ah, le facevi? Sì, anche le penne, tutto di quelle penne lì, tutte quante, a volte, non ha più. Ah sì, quelle che poi col filo le coloravano anche. Non le ho più viste, perché sono cose che non vanno più. Vabbè, sono cose del passato. Qui ci siamo, diciamo, l'evoluzione ti porta a avere le cose pronte, quindi che ti lo va a fare. Però il portapenna ancora qualcuno l'ho fatto da poco. L'ho fatto uno, un amico mio e uno per me, perché c'avevo sempre queste penne in giro e mi sono fatto il portapenna. Il legno qualcuno l'ha fatto. Sì, ma sono cose. Le vendono proprio, le mollette rotte, no, le vendono. Le vendono anche, come si chiama? Ombra, senza la molla, no? I pezzi delle mollette di legno. Proprio per fare queste cose. Anche le barche puoi fare, ti fai il modellino, poi le rivesti con le mollette, diventa ben bella. Praticamente lo rompe di cartone. Anche il portamollette, è presente il rotolo della carta igienica, quando finisce c'è quel cartone rotondo. Oppure quello dello scotte. E quello dello scotte sei un bel manno, cosa di buono, penne gigante. Vabbè, lo puoi sempre tagliare in due già. No, è troppo grande quello dello scotte, se invece quello della carta igienica rimane a misura giusta, proprio l'altezza della molletta. Incolli le mollette, eccetera, eccetera, rifai il fondo. E poi diventa bellino, dai. Ma tu lo colori poi o no? Lo lasci diretto? Lo lascio proprio il colore delle mollette. Ce l'ho a casa, non l'hai visto. È proprio vicino al televisore. No, perché vabbè, io non è che non c'ho uno, non sono di qui. E quando entrano, guardano e poi rimane in mente. Molte volte quando ti presenti, se non ti conosco, mi dici il nome, dopo 3 secondi non mi ricordo neanche come ti chiami. Quello anch'io. Quello cosa succede anche a me. E io vabbè, comunque, lavoriti così, da qualche cosa me la so costruire, se devo fare per dire, cosa ti posso dire, tappare un buco, cosa, metto il legno, lo infilo a forza dentro e poi lo taglio, faccio questi lavori qui, poi lo stucco, queste cose qua sì, tipo le cerniere, quando si rompono le cerniere, lì rifaccio il pezzo. Ho capito, quando si, diciamo, si apre la parte dove abita la vite, e allora tu glielo rifai tutto. Come io sto facendo gli stecchini. Vabbè, adesso per lei. Anche con gli stecchini, i lavoretti con gli stecchini si possono fare. Comunque, niente, adesso dovrò cambiare tutte le cerniere della cucina, perché mi si stanno tutte sballando, specialmente quelle della scuola piatti, si aprono gli sportelli da soli. Quelle lo sai, io le ho cambiate 2 anni fa a casa, ho fatto una faticaccia per trovarle già, che non ti dico, perché ci sono sì tanti tipi, però quelle lì non c'erano. Io non lo so se si trovano, non te lo so dire, però simili sì, magari li fai la modifica. Però aspetta un attimo, non devi modificare proprio per niente, perché cambia il passo, cambia. Tu devi utilizzare la stessa cerniera, se no ti è fregato. Vai da Palmieri, ti porti una di campione e sarebbe va bene, se no devi fare i buchi rubi. Sì. Ho fatto così, l'ho messa una che non era proprio uguale, gli ho fatti i buchi nuovi e è andata bene lo stesso, non è che. Però poi adesso ho cambiato quelle di una sportella, adesso si sono rotte quelle dell'altro. A me un amico me ne aveva portato, Marco, quello che tu hai visto a casa, me ne aveva portato una busta di queste cerniere, cioè che ce le aveva. Perché lui si divertiva quando vedeva per dire mobili buttati e cosa le smontava, perché sa proprio che non si trovano queste cerniere, non per non comprarle, perché proprio non si trovano, le smontava e se le portava a casa e me ne ha portato un bel po'. Adesso se tu dici dove le ho messe, spaccami la testa in due, non me le ricordo. Lo so, capita così già. Sì, però per avere la stessa apertura, lo stesso passo, perché se no magari lo sportello non ti va bene, o state sopra o diventa stretto, insomma deve avere lo stesso passo, perché quelle cerniere hanno un passo obbligato, ci sono quelli a battere un centimetro, ci sono quelli a battere a 2 centimetri, ci sono quelli a filo, insomma deve essere quella per cui quello sportello è stato costruito per quella determinata cerniera, e allora devi utilizzare sempre quello. Vai da Palmieri, che lui già è fornito, e se non va a Palmieri vai da Carboni, certo se vai da Bricco me lo lasciate io. Vabbè ragazzi, dai, io vi saluto che vado a cenare, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao Antonio, io vi ringrazio per la chiacchieratina e adesso chiudo perché devo andare a cenare. Però tu sappi che Gianni quando ha avuto necessità di parlare si è sempre rivolto a me, per cui gli ho fatto alcuni lavori, diversi lavori, e ancora non si sono rifacciati, peccato, glieli potevo fare un po' meno bene, così si sarebbero rotti prima. Vai a tu. Una cosa già si è rotta, le rotelle che c'erano sotto il mobile dove c'ho le radio, a furia di andarla avanti all'indietro, deve essere si sono seccate quelle rotte, tappe a pezzi. Che si sarà i gusumati? Sostituisci, già ci sono da famiglia, vai uguale, le coppie uguale, già ci sono. Ma le rotte non le ho fatte io le sono attaccate. Ci sentiamo, ciao, chiudo. Bene, ciao Giù, buona carica. Buona serata, alle prossime. Ciao Giulio, ciao, buona serata, buona continuazione, dai. Giulio mi ha fatto il mobile dell'acquario, quello dello stereo e quello dei baracchini. Sì, no, anche a me ha portato le porte, guardate, la polizia non è che non fa, non si chiama il piatto, non fa, non vuole essere una cosa che non fa, non si vuole. solo la pialla, vedi, al cappa. E io usavo quella a mano, non va bene. Ma non è la stessa cosa, come dice lei, non sta con la greggia, già. Anche se usi quella a mano, che sono porcherie, invece tu c'ha quella, c'aveva con la pena spessore, se la filavi sotto, 2 cm, 2 cm per tutta la lunghezza. Lo so. Da Bricome c'hanno un macchinario che va di cazzo. Ho visto cosa tutto fa, taglia tutta misura, fa di tutto, vedi Bruce? Sì, lo so, ma qui di Bricome mi piacciono falegname, giuri e falegname, così come sono, ci sono tagliatori, non sono falegname, ti tagliano il pezzo e buh, la vuoi da arrangi. Tant'è vero che a Marco, un amico mio, si doveva fare un soppalco, è andato, ha preso le travi, doveva fare da una parte e dall'altra, nei bagni, farsi un soppalco, c'era lo spazio, per mettersi un po' di roba sopra, capito? E se lo stava costruendo lui, se gli hanno fatto, gli hanno messo le misure, gli ha dato le misure da tagliare e hanno invertito le cose, hanno messo quello di uno nell'altro, un casino, insomma. Infatti meno male che ce n'erano in più e lui si è arrangiato con quelle che c'erano più lunghe, le ha tagliate lui e ha fatto le cose come doveva, però intanto le hanno sbagliate. Vedi, però se fosse stato un falegname veramente non sarebbe successo. È come le storie che ogni giorno chiamando un amico che sa arrangiare, si intende gli insegnanti elettrici e mi ha messo a posto due tiri, l'altro è ho chiamato un elettricista. Allora tu non me ne parlare perché io ho chiamato un idraulico, c'avevo lo scarico dell'avello che era intasato, ma intasato da non scendere l'acqua, e ho chiamato l'idraulico e mi fa già, se uso la pompa sono 70 euro, solo per la pompa, più l'intervento sono 90 euro, e detto, io l'ho chiamata per sbloccarmi le cose, poi se devi usare la pompa, se devo fare 90 euro, non mi interessa, l'interessante è che mi faccia il lavoro. Beh, questo qua comincia, pompa, questo, quell'altro, liquido, non ce l'ha fatta, ha provato, riprovato, beh, lo sai che ha voluto lo stesso 90 euro per l'intervento perché ho usato la pompa. Poi ho chiamato un amico mio, in 5 minuti ha preso, è entrato quella molla lunga, prima ha bucato appena appena, poi ha messo la pressione al massimo, ha detto già, o crepiamo i tubi o si stasa tutto. Come ha messo la pressione al massimo, si è stasato, in 5 minuti ha fatto tutto. E mi ha cambiato anche dei tubi che c'erano messi male, tutto quanto, mi ha preso 70 euro, ma ti immagini? Vabbè, già, ma la guida era tua, è un cazzo che gli ha dato i soldi, ma stai scherzando? E lui ha detto che lavora le ore, le ha perse, quindi quell'altro. Gli ho detto anche io, scusa, ma che cosa mi hai concluso? E qua bisogna spaccare tutto, se lui mi fa spaccare tutto, voleva smontare la cucina componibile, a partire da lì e poi andare sino ad arrivare al doppio servizio che c'era lo scarico, non lì. E dice purtroppo il detersivo fa queste cose, le abbiamo tentate tutte, purtroppo non ce la facciamo, sì, ma se tu vuoi la pressione a 25 invece di volare a 50 come ti ha fatto la Legui, è normale, se non rischi non rosichi, prima tentali tutte, no? Il mio amico ha detto già, o spacchiamo i tubi o si libera tutto, però prima ci ha messo una molla che era tre volte più lunga di quella che ci aveva quello lì, l'ha fatta arrivare sino al cosetto, ecco, adesso ha bucato, adesso come ha bucato che io gli do la pressione e gli rampa tutto l'altro, si è sentito come gli ha dato il colpo, per dirti, c'è gente che praticamente è disonesta, non c'è niente da fare, cosa mi metteva a attaccarmi e cosa, glielo date, cosa devi fare, ha detto che non si poteva fare niente, che di richiamarlo, di provare a mettergli del sale, per vedere se riusciva a sbloccarlo, di non guardare la quantità da mettere, metterne anche una busta intera e lasciarlo scendere. Per cosa li fai? Se le sale corrode, no? Corrode tutto quanto la praticamente la crosta, l'incrostazione che ci sono. Quel mio amico mi ha detto, ma io non gli ho detto che me l'aveva detto quello, non gli ho detto nulla che avevo chiamato un altro. Gli ho detto solo, ascolta, ma è vero che il sale ma lascia perdere. sale, il sale è un po' rosso. Fra 20 anni te lo posso dire, se è calcare, il sale ti può scegliere il calcare fra 20 anni, ma devi stare i giorni mettendo sale però. Quando si è arrivato a quel punto lì di usare prodotti chimici, prodotti chimici oppure una pompa con pressione alta, però chiaramente ti ha detto bene, amico, qui ho mistura o ci lasciamo l'impianto di scarico. Infatti si è sturato. Cosa ti stavo dicendo? Mi ha lasciato anche un liquido, mi ha detto questo qui non lo vendono nei negozi, lo vendono solo quello che vende il pellet, come si chiama, che c'ha preda lì, dammi, che vende il pellet a poco prezzo, vabbè non mi viene il nome adesso, che ci andavo anch'io a prendere il pellet a pedanili. Beh, mi ha detto lo vende solo quello, quello. Praticamente questo qui, questo liquido è potentissimo, lo lasci, se vedi che la vanilla sta scendendo male subito glielo metti, lo lasci agire 11 minuti, un quarto d'ora e poi gli butti acqua calda e vedrai che si stasa, che non c'ha più problemi. Io a casa mia lo faccio molto meglio questo lavoro lì. Ho un disorgante particolare, che è un idraulico, un mese, mese e mezzo, quando vedo che comunque anche nella vasca, nella doccia, sai, lo scarico, se ne accorgono che nella doccia lo scarico si sta rallentando, allora devo dire, il terino, la notte, diciamo, la macchina ha preso, che mi ha troppo il terino, poi aspetto un po', facendo papano, si alzano, sì. Ma sai cos'è? Che quei liquidi di corrodo non che le tubazioni, non è che fanno solo il lavoro giusto, che se ne metti troppo si mangiano i tubi, capito? Oltretutto si mangiano anche i tubi di quelli che ci sono giù, eccetera eccetera. E vabbè, io giù non c'è nessuno, sì, sono io, ma in ogni caso non devi lasciarlo per molto tempo, sai, che lo scarico a lento, ti metti il bicchierino, metti l'acqua e ciccia, se lo lasci, certo che se continui a buttare il liquido e non te ne freghi, lo sciacqui dopo 2 ore, dopo lo siamo andati pure a te. Ah, questo qua, alla Sidernet, adesso mi è venuto il nome, la Sidernet. Agire poi con la pompa sparano quando è molto intasato, la me addirittura faceva tornare la pompa indietro a 25, capito? Faceva tornare la pompa indietro, l'aria tornava indietro, buttavi l'aria con la pompa e tornava indietro. La sonda della pulipapolo, no, la pulipapolo con la sonda per il rito, entra, ce la tutti dentro, attacca la pulipapolo, fa la pressione, acqua calda, ma che fredda, però tanto una volta che senti la sonda dentro c'è la pressione, quello toglie, che ne so, invece atmosfera. Buona a sapersi, se non ti torno dietro ti fa la doccia. Ma era un pezzettino praticamente, visto in cucina, dall'avvello sino al doppio servizio, un pezzettino, un pezzo, però bisognava smontarle, la cucina componibile, l'avvello, via dicendo, ma se sta scherzando, che mette a smontare, che poi una cucina adesso che c'ha già i suoi anni, quindi vai a smontarla, magari ti rimane a pizza. O te rimane tutta la sua in mano, poi raga, pizzicchia. Lui voleva già aprirevi, per lui era già pronto a aprire, no, tu non apri niente, lascia stare, ho capito, cioè, ma io ce l'ho messa tutta, però non è fatto il lavoro che dovevi fare, glielo ho detto, sì, ma l'intervento quelle ore le ho sprecate, io potevo fare un altro lavoro con queste ore che ho sprecato qua. Lo so, però siccome non ero tenuto il suo risultato, quando prenderesti 80, te ne ero 40 e ti dici le palle. Ma solo per... sembra che sia d'oro questa pompa, per usare la pompa 70 euro, ma stiamo scherzando. Ma tu sei una professionista del senso, 70 euro a pompa. Me l'ha detto, se vuole che usi la pompa sono 70 euro per metterla in atto. Cazzo, ho detto così, d'oro questa pompa. Come le faccio a pompe a me? Duriamo un paddo. Mi sa che... adesso non so se è perché lui ha fatto qualche cosa, poi come è arrivato quel mio amico che ha subito entrato, era duro mi ancora. Quando c'è entrato con la sonda a molla, quello lì la faceva girare, l'ha fatto tipo idica così, e in punta c'è un affare, e là, ha scavato praticamente, gli ha fatto un buchettino, non grande perché la cosa è fina per passare, ha fatto un buchettino. Poi come gli ha messo la pressione si è detto libera. Tu sei anche fortunato, ma lei sta dando proprio il culo. Hai avuto il culo che ha dovuto fare la pompa. No, lui ha pompato, però ha pompato più atmosfere, quello aveva paura, capito? Aveva paura di farsi una cacchidose, quindi non ne ha fatto, gli ha telefonato il principale, beh a che punto sì, non si riesce a spazzare, aspetta che vengo io, no guardi non c'è bisogno, abbiamo già fatto tutto noi, ma no, niente da fare, abbiamo messo, ma la molla messa l'avete, sì, il principale dice, passo io, no non c'è bisogno, e non è passato, invece magari passava e tu lo sappiamo, perché mandano questi ragazzi che non sanno fare un cacchio. Ma tu dai, a me se il padrone di casa che si procede io ti sputo dentro anche 30 atmosfere, te ne salgo anche i mattoni. No, ma lui a prescindere mi ha detto che di più non li dava di atmosfere perché non si fidava. Non... dice no, di più non ne possiamo dare, non mi fido perché rompo tutta la tubazione così. E invece quel mio amico che era abbigliato, prima le ha fatto il buchettino di modo che uno sfiato ce l'avesse, capito? Però nello stesso tempo dice io l'ho fatto il buco per avere un po' di sfiato, di modo che non ci abbia troppa pressione a crepare i tubi, perché magari se te lo rimane lì si crepa il tubo, invece così con lo sfiato. Un po' c'è dallo sfiato, un po' c'è dai lati e riesce a toglierlo. Vabbè, non te la vedo che le parte, perché io avrebbe spaccato qualche... nella curva, in cosa d'accordo. Il tubo, una volta che è murato, lo spacchi così. Però avrebbe rotto sicuramente la... la parte incollata di qualche curva, di qualche manicotto. Gli scarichi sono in plastica, perché già di chi sia, neanche tu. Sono in plastica. L'avrebbe praticamente curve non ce ne sono, è tutto dritto, dal lavandino va dritto sino allo scarico. Ma ci sarà una curva di, come ti cazzo sbagli dal lavandino andare dritto allo scarico, non scende in terra, ci sarà una curva, sicuramente lì l'incasamento non è una curva. No, lo mandava, arrivava la molla sino a un certo punto, quasi arrivata allo scarico e poi si bloccava. Allora quando si è bloccata l'hanno fatta girare come un'elica così, l'hanno fatta girare, una lo teneva e l'altro girava. E ce l'hanno fatta, dai, praticamente, con questo metodo qua ce l'hanno fatta. Guarda, io per vissuto, per quante le volte che ho visto casamenti e ho visto persone che poi sbasciavano, si incasa sempre nelle curve, sempre nelle curve oppure nei gomiti o... ma mai nella parte dritta. Allora ha cominciato a toglierla dal lavello, ha smontato tutti i tubi, li ha tutti puliti, lavati, fatti, sì c'era qualcosa ma non era quasi nulla, ha tutto lavato lì, poi una volta li ha rimessi tutti in sesto i tubi e ha provato con questa molla, ha provato e ho visto che... l'ha saputo fare il lavoro, dai, quello lì non era esperto secondo me, non ne comprendiamo più nulla. Non ne comprendiamo la massa di Zamburu, sì, bianco. secondo già che vado al QTH piccolino. No, no, altro ti saluto che stanno a portare giù il cane, se no non lo porto più giù, poveraccio. Se mi ordino la pizza adesso, dai. Ci sentiamo, Antu. Buona domenica, dai, ci sentiamo. A presto. Ciao, già. Ciao, buona serata, buon proseguimento.